Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ed eccoci con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Potete sempre raggiungerci anche oggi che siamo al Salone dell'Auto di Torino, in pieno Parco del Valentino. È bellissimo, qui c'è anche un sole meraviglioso. Potete raggiungerci fisicamente, ma anche con le nostre coordinate. Il nostro numero per i messaggi 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola e poi c'è l'hashtag cancelletto ISDV. Ma di cosa parleremo nella prima ora di questo sabato del villaggio? Parleremo con Enrico Pagliarini di tecnologia e ovviamente auto. Tutte le novità in sala con il nostro Franco D'Assisti, con il gastronauta Davide Paolini. Noi siamo a Torino e quindi parleremo un po' di chicche in fatto di buon mangiare e buon bere a Torino, ma parleremo anche di ricettari di famiglia. Ma noi partiamo da qui con degli ospiti straordinari, qui dal Salone dell'Auto, con una bandiera, una leggenda di Torino. E ombrelloni, donne nude sui mosconi. Siete sdraio, ombrelloni, donne nude sui mosconi. Più grossa d'Occidente, abbiamo anche il padrone col maglione prepotente, abbiamo grandi piazze dove andiamo a passeggiare, ma quando arriva agosto e fa gran caldo, qui non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. Allora, qui non c'è il mare, ma c'è un parco favoloso che, l'ho detto, è il Parco del Valentino, è uno dei simboli di Torino, una delle bandiere di Torino. Ma noi abbiamo qui al Sabato del Villaggio un'altra delle bandiere di Torino. E chi canta, anzi quest'anno ancora nel 2017, questa splendida qui non c'è il mare? Sono di statuto, abbiamo Oscar e Nasca. Ciao. Buongiorno. Allora, lo so che in questo periodo io gli statuto li sto mandando in onda da Radio 24 a sprombattuto, però questo vi fa capire, uno, quanto io ami questo gruppo favoloso, due, quanto io li ritenga tanto importanti per Torino, perché appena ho saputo che saremmo venuti a Torino ho detto loro, e lo sanno, perché non venite anche voi? Perché voi siete importanti per questa città, ragazzi, dai, diciamolo. Abbiamo già un nome che è il nome di una piazza di Torino, quindi insomma, già dal nome si capisce. Ci hanno dedicato addirittura una piazza. Esatto. Così, in effetti. Ancora, ragazzi, in vita. Da quanti anni voi suonate insieme? Dall'83. Il primo concerto degli Statuto è stato il primo maggio 83. Beh, quindi, insomma, 34 anni. Però festeggiate i 25 di un successo enorme quest'anno, che è l'album Zighidà, che è stato quello che poi vi ha portato al successo in tutta Italia. Quello che ci ha portato al grosso pubblico, il primo che è stato pubblicato per una casa discografica multinazionale e conteneva anche il brano che abbiamo portato al Festival di Sanremo, che era andato molto bene, e quindi con questa scadenza, questo anniversario dei 25 anni, c'è stata l'idea di ripubblicarlo per il pubblico che tanto tempo fa non era forse neanche nato, che magari potrebbe gradirlo. Allora, un brano che avete portato a Sanremo che si intitolava Abbiamo vinto il Festival di Sanremo e che in realtà non dovevate, cioè com'era andata la storia? Non era assolutamente previsto che noi andassimo al Festival di Sanremo, cioè avevano detto così, facciamo un pezzo che sia così un po' ironico che prenda un po' il giro il festival, tanto di sicuro figurati se lo prendono. Poi ha detto no, ma iscriviamolo al festival, così di sicuro non lo prendono e sfruttiamo il fatto che vi siate stati esclusi per fare un po' di pubblicità, per parlarne. E poi non si è più sentito niente e a inizio gennaio io l'avevo sentito al TG3 all'ora di pranzo, avevano letto l'elenco dei partecipanti al Festival di Sanremo, i big e poi i giovani, hanno fatto il nostro nome. Ho detto ma come, avevamo già la protesta, censurati, non ci prendevano, noi non andiamo, figurati, andiamo lì, ci svendiamo. E allora a quel punto, in questa piazza statuto che vi ha dato il nome o alla quale avete dato il nome a seconda dei punti di vista, avete dovuto decidere? Abbiamo fatto una votazione perché c'era chi diceva andate, figurati, andate a fare una cosa che avete sempre fatto, non vi snaturate, andate per quello che siete, con la vostra musica, col vostro stile, quindi cioè, che senso avrebbe non andare? A noi sembrava così un po' una svendita della nostra musica, della nostra immagine, invece per fortuna insomma ci siamo andati, perché poi comunque, a parte che comunque non ne siamo usciti assolutamente compromessi da un punto di vista morale o etico nostro, anzi ci ha dato la possibilità di farci conoscere e di far conoscere il movimento Modo a tanta gente, e di sicuro da allora la nostra carriera ha avuto una svolta, diciamo che riusciamo a vivere o sopravvivere con la nostra musica da allora. Quindi insomma, assolutamente sarebbe stata una scelta criminale non andare al Festival di Sanremo. E infatti quella votazione l'abbiamo formalizzata con una votazione con tutti i mods, che erano tanti, erano 73, 71 favorevoli, uno contrario, io ho astenuto e andammo appunto. Allora però a questo punto vi devo chiedere chi sono i mods e cosa rappresentano per Torino e cosa rappresenta Piazza Statuto per i mods e per Torino? Lo stile mod, il pensiero mod è un tipo, uno stile di vita che è nato fino agli anni 50 in Inghilterra, ma non per questo sia relegato a quella zona geografica e relegato a quel periodo, anzi è proprio uno stile di vita in continua evoluzione, la prima cultura multietnica che nasce fondando insieme la cultura afroamericana, quella giamaicana, quella europea, e sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista musicale, dal punto di vista comportamentale, ideologico, e quello che cerchiamo noi è sempre di trovare degli aspetti che possono arrivare da qualsiasi parte del mondo e farli nostri prima degli altri, quindi essere sempre fieri ed eleganti è un passo avanti, diciamo noi così. Fantastico, fieri ed eleganti un passo avanti, ma voglio essere moda anch'io, ragazzi, siete fantastici. Basta che vieni in Piazza Statuto, appunto noi siamo lì ogni sabato pomeriggio, quindi tra poco alle 16 davanti a Palazzo Paravia, come succede nel 1980, noi siamo lì con i nostri scooter e ci incontriamo noi, ma incontriamo anche altre persone, eccetera. La cosa bella è che ovviamente non ci sono soltanto dei vecchi come Nasca o come me, ma ci sono anche soprattutto delle generazioni più giovani, dai 15 anni, 20, 30, eccetera, quindi vuol dire che è veramente un fenomeno che è spontaneo, libero, che nasce sulla strada, senza essere mai di moda, proprio per questo sempre attuale e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Ragazzi, com'è stare a Torino? Com'è vivere a Torino? Perché Torino è una città che ha passato tante fasi, però sempre, anche dal punto di vista della musica, con un sacco di idee, un sacco di... magari non tanto visibili. Torino non è una città che urla, però fermenti e idee sempre. Beh, ci sono state tante realtà che sono venute fuori da Torino fine degli anni 80, anni 90, anche a livello nazionale. Adesso da un punto di vista musicale e culturale sembra che sia un po' più tranquillo, un po' più il fermento si sia un po' fermato, però sai, quando ci sono i momenti di crisi c'è sempre qualcosa sotto la cenere. Certo, quindi probabilmente sì, insomma, come si è sempre riciclata e rinnovata e ha tirato sempre fuori così dei jolly nei momenti meno aspettati, di sicuro succederà di nuovo così. C'è anche meno necessità forse da parte dei ragazzi, perché comunque adesso come adesso tutto, per un giovane a Torino viverci, studiarci, eccetera, è positivo, una cosa buona, perché comunque c'è modo di divertirsi, di sera comunque si esce, ci sono attività musicali, eccetera, cosa che non c'era tempo fa. Poi dal punto di vista professionale e lavorativo, quando poi si passa a quella fascia di età in cui si è studenti, dopo diventa dura, e dura un po' in tutta Italia, lo è naturalmente anche qua a Torino. Invece una volta non era una città dove il divertimento era garantito, bisognava veramente inventarselo anche dal punto di vista, appunto, c'era la necessità di esprimersi, quindi forse delle idee molto originali, molto particolari sono state proprio venute fuori fisiologicamente per dare necessità di fare qualcosa di diverso, perché se non ti inventavi qualcosa davvero c'era da impazzire. Era veramente una città alienante dal punto di vista industriale, costruita soltanto come dormitorio di chi doveva andare a lavorare in fabbrica. E allora gruppi come i Rauf, penso io, il gruppo che ha fatto la canzone Torino la mia città, che è diventato un po' un manifesto dei giovani di quel periodo. E da lì in poi Carmo di Monuments, gli Africa United, tutto quello che è passato in Subsonica, ma penso anche a quelli che hanno fatto un blu, come si chiamavano? Gli EFL 65 con Gabriel Monte. In tutti i generi musicali Torino ha sempre dato delle cose molto importanti. Sì, Righeira, insomma. Il Righeira, che sono ancora una bandiera, certo, sono ancora, certo, vivono e lottano a Torino con grande... Con grande vivacità. Ragazzi, però Torino è anche una città di calcio. Allora, lo scorso tanto voi non soffrite, perché voi state di un'altra bandiera. Lo scorso sabato c'è stata una finale che ha gettato nello sconforto metà della città. Voi invece... Un quarto, forse, neanche. Eccoli, Torino è la squadra di Torino, il Toro. Poi la Juve ha tifosi in tutto il mondo. Prova ne sia il fatto che sono venuti tantissime persone da altre città per vedere tutti insieme la partita della Juve qua a Torino, ma la maggior parte, per esempio, delle persone sfortunate che si sono trovate in Piazza San Carlo per quello che è successo provenivano, ma veramente in alta percentuale, da fuori, dimostrazione che non è la squadra di Torino, ma è la squadra di un sacco di parti d'Italia. Allora, quello che è successo sabato sera è stato veramente angosciante, certo, però io vorrei parlare anche un po' del bello del calcio. Voi siete una bandiera anche per il Toro. Beh, noi siamo del Toro, no? Siamo fieri di essere del Toro, crediamo che sia una cosa che va al di là del tifo calcistico, la nostra appartenenza è totale, e abbiamo suonato poco tempo fa per l'inaugurazione della nostra casa, del Philadelphia, che dopo 20 anni è tornata a essere attiva e viva, dove ci si torna ad allenare, a seguire la nostra squadra, a stare tutti insieme tifosi, squadra, ed è una cosa importantissima, e siamo sempre presenti in curva a Primavera con il nostro striscione. Questa è una cosa molto importante per noi. E siamo forse il primo gruppo a aver fatto un videoclip con una squadra di calcio al completo. Nel 98 uscì un nostro singolo che si intitolava Un posto al sole, e c'era tutta la squadra all'epoca del Torino che giocava una partita di calcio contro di noi. Beh, straordinario. E poi un'altra bandiera del Torino Calcio, che è Paolino Pulici. La bandiera del Torino, dello scudetto del 1976, è stato protagonista di un nostro video che si intitolava Facci un gol. Tra l'altro, la canzone dedicata a lui. Tra l'altro, appunto, una canzone dedicata a lui, dove lui è protagonista attivo nel videoclip, quindi insomma è stata una doppia soddisfazione. Ma facciamolo un passettino indietro a quel Sanremo di qualche annetto fa, perché la canzone era veramente straordinaria. Ma che onor per noi vincere questa gara, era già previsto un anno fa. Siamo il miglior gruppo Ragazzi, adesso però voi girate con questa e le altre canzoni che hanno fatto epoca in tutta Italia. Domani siete a Lecco? Domani siamo a Lecco, sì. Sì, domani siamo a Lecco, Maggianico, che è una zona di Lecco dove c'è un parco e c'è questo contest di band locali, e alla fine suoneremo noi come ospiti. Bello! Com'è il vostro pubblico? Com'è il pubblico degli Statuto fuori da Torino? Perché appunto Torino siete una leggenda. Fuori chi è il vostro pubblico? Abbiamo comunque, insomma, avendo suonato sempre tanto in giro, quindi avendo sempre fatto concerti, abbiamo tenuto comunque sempre uno zoccolo duro di nostri seguaci. Non li chiamo fans perché mi fa ridere. Sono degli amici. Così, diciamo. Sono degli amici. Beh, però io sono una fan, poi gli altri non lo so. Io sono una fan. Grazie. Grazie. Per fortuna, insomma, anche come il discorso mod di Piazza Statuto, anche il nostro pubblico comunque si è rigenerato, cioè ci sono sempre nuove leve. Magari capita a volte di vedere dei ragazzi della nostra età che erano ragazzi quando noi suonavamo al Festival di Sanremo, che adesso hanno messo su famiglia, vengono su quei figli, anche loro così indottrinati alla nostra musica. Questo non può che farci piacere, perché insomma vedere magari un bambino di 5-6 anni che conosce le nostre canzoni sembra un po' così, un po' inimmaginabile. Infatti abbiamo fatto anche gli ospiti allo Zecchino d'Oro. È vero, infatti 5-6 anni fa siamo andati anche allo Zecchino d'Oro, fra le tante cose strane che abbiamo 2009, fatto. Sì, infatti, quindi abbiamo cantato Scamaleonte, a dimostrazione di quella del Tonasca, quindi... No, però è vero che ci sono tanti adolescenti che vengono senza genitori, che probabilmente per le tematiche che trattiamo nelle nostre canzoni, oltre al ritmo sempre molto veloce, molto ballabile, quindi è sempre rivolto comunque ai giovani il nostro suono. Comunque, siete fantastici, io sono una grande, grandissima, lo dico, fan degli Statuti. Grazie. Che sono davvero una bandiera di questa Torino che oggi è favolosa. Grazie Oscar, grazie Nasca. Grazie, grazie a voi. Buona estate, perché Zighi da 25 è da portare in giro per tutta l'estate. Tante date sul sito statuto.net, ci sono tutte le date segnate. La pagina Facebook gli Statuto, insomma, Instagram gli _ tutto Statuto, proprio. Insomma, siamo proprio all'avanguardia. Grazie ragazzi. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao. Noi ci sentiamo tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su RDS.it. Il sabato del villaggio. Nostro gastronauta Davide Paolini, sempre in tema di auto, ovviamente siamo sempre qui al Salone dell'Auto di Torino, al Parco del Valentino, in questo splendido sabato pomeriggio torinese, ma noi comunque ci colleghiamo con il nostro gastronauta, che comunque ha una tendenza da segnalarci. Ciao Davide! Eccoci qua, pronto, prontissimo, visto che siamo in auto andiamo fortissimo. Ah, certo, andiamo fortissimo. E qual è la tendenza che ci vuoi segnalare per questa settimana? Non sei al Salone del Libro, sei al Salone dell'Auto, sì? Però posso anche dirti che la tendenza è quella dei ricettari di famiglia. Ormai ne vengono pubblicati uno ogni giorno, la gente torna al passato, torna indietro, probabilmente torna alle radici, e quindi per tornare alle radici, rivivere quei momenti, cosa fa? Prende le ricette della nonna, della bisnonna, della mamma, scrive e si crede di essere uno chef, visto che in questo momento gli chef vanno per la maggiore, la gente si sente chef. Allora, io ce l'ho il quaderno delle ricette della nonna, che cucinava molto bene, ma vale la pena andare a trovare questi ricettari secondo te? Io non voglio spacciare cose mie, ma io tempo fa ho scritto un libro che sono le ricette della mia memoria. Ebbene, due noti cuochi o chef, chiamali come vuoi, mi hanno confessato di aver tratto due ricette proprio dal passato, da queste ricette che faceva mia nonna o del mio territorio, quindi succede che possono essere interessanti. Molte volte però guardarsi sempre indietro non è che sia un fatto positivo, anche perché molto è cambiato, i gusti sono cambiati, i profumi sono cambiati, soprattutto i prodotti sono cambiati, però io credo che valga la pena questo colpo di indietro, di ritornare alla memoria, alle radici, forse va bene. Tu hai qualcosa da consigliarci in particolare, oppure andiamo sereni e sperimentiamo noi in prima persona? Tu ne hai scoperto qualcuno di valore, o come ci consigli di comportarci? Mi viene da ridere, però il mio te lo consiglio, le ricette della memoria. Quindi no, non, guarda, non vado oltre, non dico l'editore d'altro, però okay, lo troviamo. Ha avuto forse più successo di altri miei libri. Io l'avevo fatto, ecco, ti spiego la motivazione, forse anche questa, c'è cioè una motivazione psicologica. Io con questo libro ho ricreato la mia storia, cioè sono tornato indietro momento per momento della mia vita, di tanti anni della mia vita, e attraverso le ricette ho ricostruito quello che io chiamo biografia gastronomica. La mia biografia gastronomica mi dà tanti momenti della mia vita da bambino fino ai tempi dell'università e fino a qualche anno fa. Allora Davide, hai ragione, è proprio una cosa che ci dice molto di noi stessi. Vogliamo raccontare un po' invece del territorio in cui siamo, perché come sempre noi ci spostiamo con le nostre esterne. La scorsa settimana eravamo a Trento, questa settimana siamo a Torino, e so che tu hai molto da dire di questo territorio ricchissimo. Torino veramente ha una varietà sia di sulla ristorazione, sulle pasticcerie, su tutto. Allora io do tutta una serie di segnalazioni. Una che è il locale storico di Torino, perché lì c'è la storia di Torino, è il cambio che ultimamente è stato completamente ristrutturato, e quindi dentro si trova la sala Cavour, che è la sala molto amata dai torinesi, che è rimasta tale quale, mentre c'è anche qualcosa di nuovo che è la sala che io chiamo Pistoletto, ma si chiama in altra maniera, perché era una sala in cui era poco frequentata, ma con una serie di specchi di Pistoletto è diventata una sala moderna molto interessante. E anche la cucina ha due momenti, ha un menù sulla tradizione, che è basata per esempio sugli acciughe al verde, il vitello tonnato, gli agnolotti della Piemontese, ma ha anche tutta una serie di piatti completamente nuovi, perché Matteo Baronetto, lo chef, giovane ma molto emergente, anzi ormai emerso direi, e che ha portato tutta una serie di ricette sue che ha elaborato molto molto molto innovativi. Quindi c'è per tutti i gusti, diciamo, chi vuole andare in questo locale. Soprattutto è bellissimo da vedersi questo locale, e anche per le altre opere d'arte che ci sono dentro e per appunto la storia che contiene. C'è anche un ristorante più easy sempre all'interno e anche una pasticceria. Poi ancora c'è un altro ristorante che è il Consorzio, che è una trattoria moderna, è una trattoria senza fronzoli, una cucina moderna ma legata soprattutto al territorio. Quindi anche questo, diciamo, può essere l'alter ego di Torino. Dentro Italy poi, ricordo che la prima nata è proprio a Torino, certo, vicino al Lingotto, anzi al Lingotto, c'è un ristorante nel piano diciamo sotterraneo che si chiama Casa Vicina. Ecco, è sotterraneo, ma è un ristorante di grande livello, con una famiglia, questa vicina, che da anni porta avanti dei discorsi molto importanti, sia soprattutto sulle ricette della tradizione, con un tocco di personalità del cuoco. Poi potrei citare anche il Mago Rabin, che è un altro ristorante importante di Torino. E voglio segnalare altre cose però. Ad esempio, chi ama il vermouth, e Torino è la città del vermouth, c'è un locale che si chiama Anselmo, che è una vecchia etichetta di vermouth, dove si possono bere appunto cocktail tutti a base di vermouth e assaggiare veramente questo prodotto, che è una delle glorie sicuramente dell'Italia. Ed oggi il vermouth è tornato, come abbiamo detto una trasmissione mesi fa, è una grandissima tendenza. E io vi voglio portare anche fuori a Torino, visto che siamo al Salone dell'Auto, con un'auto a pochi chilometri abbiamo due combinazioni straordinarie tra cultura e cibo. A Rivoli, dove c'è il castello di Rivoli e il noto museo d'arte contemporanea, c'è un ristorante che si chiama Combal Zero, di un cuoco che tutti considerano genio e sregolatezza, Davide Scabin, che ha una cucina tutta sua personale. Forse più personale di così non si può, non appartiene a nessuna scuola, offre piatti sorprendenti, e tra l'altro ci sono due menù, uno si chiama Down and Up e il secondo Up and Down, cioè più tradizionale il primo, si inizia dal semplice, si finisce al complesso, e anche l'altro invece si inizia dal complesso e si finisce, diciamo, ai piatti più semplici. Vicino sempre a Torino c'è la famosa Avenaria, ovviamente c'è la Reggia dei Savoia, e c'è un ristorante dentro la Reggia, e anche questo vale la pena di essere visitato, che si chiama Dolce Stil Novo, e di uno chef anche questo importante che si chiama Alfredo Russo, che quindi lì si gode uno spettacolo veramente straordinario, anche quando quando ci sono le fontane in funzione di sera, veramente meraviglioso vederlo, magari si vede dalle finestre di questo locale, dove c'è una cucina molto personale anche in questo caso di questo cuoco, che è molto proiettato sul futuro. Continuo ancora con una pasticceria a Rivalta, una pasticceria straordinaria, Dolce Intuizione di Marco Vacchieri, dove abbiamo una cura estrema degli ingredienti, da cui gelati straordinari, piccola pasticceria, tutte le forme di cioccolata, dalle praline alle tavolette, e soprattutto delle meringhe, veramente da mangiarne, viene voglia di mangiarne più di uno, poi non ci si fa perché le meringhe riempiono anche molto. Comunque a fragole, champagne e zabaglione. Che meraviglia, meringhe, fragole, champagne e zabaglione, mi hai totalmente conquistato. Dov'è questo posto, ripetimi? A Rivalta di Torino, pasticceria Vacchieri, Marco Vacchieri è il pasticcere, e devo dire che vale un viaggio. Quindi, straordinario. Per mangiare tutto, cominciare magari con le praline, poi andare alle torte meringate e poi ai gelati. Quindi si può fare l'amplen e poi magari si portano via anche delle cose, dei biscotti, anche questi molto ma molto buoni. Beh, a quest'ora mi stai facendo venire una voglia pazzesca di prendere un'auto qui al Salone dell'Auto, scappare a Rivalta. No, stiamo qui insieme fino alle 17, poi ci sarà una puntata speciale di RadioTube. Grazie al nostro gastronauta per essere stato con noi e per averci dato tutti i suoi consigli anche su Torino. Grazie a Davide Paolini, al prossimo sabato. Ciao Davide. Prossima. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, Cronache Meridiane, di Gianluca Nicoletti. Dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il sabato del villaggio. Macchina per macchina, i Motel Connection ci riportano subito a Torino e noi siamo qui a Torino, ovviamente al Salone dell'Auto, in pieno Parco del Valentino, con un sole meraviglioso. Abbiamo già aperto alcune pagine del nostro sabato del villaggio, ma adesso è il momento di aprire il capitolo della tecnologia, che con le auto ha molto ma molto ma molto a che fare, e lo chiediamo subito al nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico! Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Allora Enrico, auto e tecnologia, che dire, ci potremmo stare ore a parlarne? Ah, non c'è dubbio. Beh, allora innanzitutto perché è forse una delle più grandi passioni dell'uomo l'automobile, poi a proposito di tecnologia è la tecnologia probabilmente più diffusa, forse dopo lo smartphone. Negli ultimi anni gli smartphone hanno superato come diffusione l'automobile, che insomma in ogni parte del mondo dove andiamo esiste un'automobile, forse esiste effettivamente anche uno smartphone. Ho citato lo smartphone perché sicuramente lo smartphone in generale, internet, sta cambiando sicuramente tutto il modo con cui noi utilizziamo l'automobile, e ci sono vari esempi. Siamo all'inizio di una nuova era da questo punto di vista, perché se noi pensiamo che ci sono milioni di persone che nel mondo mettono in condivisione e a disposizione la propria casa, beh, parallelamente negli ultimi anni ci sono milioni di persone in tutto il mondo, Europa e Italia compresa, che mettono a disposizione la propria automobile mentre stanno guidando. Ma tra poco vi racconterò invece un nuovo capitolo di questa evoluzione. Allora partiamo da quello che i tecnici chiamano ride sharing o carpooling. Ok. Sai tu, Marco, di cosa sto parlando? Quando ci si mette d'accordo per viaggiare insieme? Esattamente. Okay. Diciamo che alla vecchia maniera funzionava così, magari si poteva fare un annuncio tra amici o un annuncio sul giornale dicendo: guarda, io tutte le settimane vado nella tal città e quindi faccio 200 chilometri, se qualcuno vuole gli do un passaggio. Sì, magari oggi, queste cose avvenivano al bar, no? Si esatto. Veniva a sapere, sai che quello va, quell'altro va e ci si metteva d'accordo. Esatto, oggi grazie agli smartphone, grazie a internet comunque in generale, esistono servizi, uno è ovviamente il più famoso che negli ultimi anni ha avuto grande successo anche in Italia, che è BlaBlaCar. E uno potrebbe sorprendersi, perché effettivamente i primi tempi anche io mi sorprendevo e dicevo: ma come, c'è gente che si fida ad andare in automobile con degli sconosciuti? Una volta si diceva: non ti fidare, non prendere le caramelle dagli sconosciuti e non accettare i passaggi. Ci sono milioni di persone che invece accettano i passaggi, ma come al solito funziona tutto sulla base della fiducia che c'è su internet. Bisogna ovviamente registrarsi a questo servizio e bisogna registrarsi tramite il proprio telefono, e quindi il sistema conosce i numeri di telefono che sono associati a delle carte di identità, e quindi da lì parte la fiducia. Ma devo dire che al di là di questa tecnicalità, poi su internet, lo sappiamo benissimo, funziona con i voti che le persone danno agli altri, quindi quando io vado con una persona e dico: sono stato molto bene, è stato divertente, questa persona guidava molto bene, do un voto da 0 a 5, magari gli do 5. Certo. E la somma di tanti voti, così come per tanti altri servizi, ricordiamo i famosi feedback di eBay da tantissimi anni, funziona un po', tutto è partito forse da lì. E devo questo dire, il fatto che esempio. Tu lo usi per me è garanzia del fatto che funziona, perché siccome sì, io sì, so sì. che tu lo usi, mi fido per prima. Sì, grande successo. Io lo uso sia per dare passaggi, quindi quando uso la mia automobile dare passaggi ad altre persone, oppure anche come passeggero. Devo dire purtroppo meno come passeggero. Insomma, il grosso vantaggio per chi non è pratico di queste cose è che costa meno se io sono il passeggero piuttosto che un altro mezzo di trasporto, oppure se io do un passaggio, posso ripagare un pochettino della benzina, che del carburante, certo. che consumo, dell'autostrada, eccetera, eccetera. Questo e poi passa prima il viaggio, se ci si può far compagnia. Sì, in realtà, Sì, sì, devo dire che io non ho mai trovato delle persone sgradevoli, sono sempre molto, molto piacevoli, quindi è stato un viaggio piuttosto divertente. Infatti c'è questo aspetto, cioè molti dicono, al di là del risparmio, c'è questo aspetto di socialità. Poi questo va un po' a gusti. Allora, ci sono alcuni servizi in città, perché qui stiamo parlando di trasporti a lunga distanza, c'è una nuova evoluzione del carpooling urbano, un servizio che ad esempio è nato a Milano, che sta iniziando lentamente, ma ha un discreto successo, che si chiama Zego, che è scritto Zego, con la Z iniziale. Qui il principio è grosso modo lo stesso, ma si condividono passaggi all'interno della città. Ovviamente è un po' più complicato, perché i passaggi all'interno della città sono più istantanei, quindi io magari decido che devo andare ad un palazzetto dello sport a fare sport e magari pianifico il viaggio per tempo, però anche questa è una evoluzione. Poi c'è tutto il capitolo del car sharing, ma qui ci sono delle aziende, quindi non si tratta di auto personali, ci sono delle aziende che mettono a disposizione dei cittadini le automobili, e questa evoluzione è veramente, c'è stato un boom negli ultimi anni ed è stata permessa dalla diffusione degli smartphone. E io devo dire, invito le persone che o per lavoro o per vacanze, per divertimento, vengono a Milano ad iscriversi ai servizi di car sharing e a provare, perché si trova, è divertentissimo. Allora, trovare l'automobile guardando una mappa sullo smartphone, prenotare l'automobile, che quindi rimane a disposizione nostra finché non arriviamo a questa automobile, la apriamo con lo smartphone e possiamo viaggiare lungo le vie della città per 10 minuti, 15 minuti, mezz'ora, quello che vogliamo, a costi piuttosto contenuti, beh, questo è fantastico. Quando devo dirti che noi a Milano e a Roma siamo già molto abituati, e anche in qualche altro capoluogo italiano, ma come dico sempre io quando parlo di queste cose, non tutta l'Italia è fatta di grandi città, anzi. No, certo, qui stiamo parlando di evoluzioni che stanno nascendo in questi anni, un po' come primissimi anni di internet, certo, degli anni 90, è ovvio che sono state le città le prime ad avere servizi per collegarsi ad internet. Io, abitando in provincia, sentivo, qualcuno mi diceva, guarda che c'è questa cosa che si chiama internet, e manco capivo che cos'era. Però oggi, insomma, direi che ogni tanto magari un viaggio per lavoro, anche per divertimento, per turismo, a Milano lo facciamo, oppure a Roma, certo, insomma, questi servizi sono diffusi. Però c'è una nuova evoluzione che penso sia molto, molto divertente, e comunque ci dice qualche cosa anche sul cambiamento della società, a proposito di fiducia mediata dalla tecnologia, favorita dalla tecnologia. Allora, c'è un nuovo servizio che sta partendo, ma sta partendo significa che partirà fra 10-15 giorni, sono proprio comunque entro il mese di giugno, partirà per prima di tutto presso i parcheggi della rete Parking Go nei pressi degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Venezia. Queste sono le prime tre città. Allora, il servizio si chiama Get My Car. Come funziona questo servizio? Io vado all'aeroporto perché devo fare un viaggio. Sì. Magari lascio l'auto in parcheggio per 10 giorni. Certo. Se io aderisco a questo servizio, a questa rete, quindi la rete Get My Car, metto a disposizione la mia automobile a persone che fanno l'opposto. Cioè, io posso dare a noleggio la mia auto. Scusa l'espressione un po' rudimentale, ma così? Sì, è proprio così, è proprio così. E quindi per questi 10 giorni, oppure anche per ovviamente meno di questi 10 giorni, in cui io sono via, la mia auto è a disposizione, io poi ricevo una ricompensa, quindi non pago il parcheggio, ricevo una ricompensa e molto probabilmente la macchina mi viene riconsegnata anche pulita, lavata e in ottime condizioni. E ti dirò di più, non ti capiterà, come è capitato a me più di una volta, di avere la batteria a terra perché l'ho lasciata 10 giorni nel parcheggio e non mi ripartiva più la macchina. Esatto, però partirà appunto in queste tre città, quindi sarà un servizio che agli inizi non sarà diffusissimo ovviamente. Però, visto che negli Stati Uniti questa tendenza la stiamo già osservando da qualche tempo, che è un po' come mettere a disposizione la propria casa, né più né meno sostanzialmente. Certo. Cioè, io metto a disposizione la mia automobile. Poi una evoluzione futura di questi sistemi potrebbe avvenire quando tutte le macchine, o comunque una grande percentuale di automobili, sarà connessa, e quindi noi potremmo addirittura, in alcuni momenti della giornata, tenete conto, e lo sperimentate anche voi se non fate un mestiere che vi tiene in automobile per molte ore, quante ore la macchina sta ferma, anche, okay, addirittura, certo, a volte giorni. In futuro, quando le auto saranno connesse, io potrei sbloccare la mia automobile, metterla a disposizione di un servizio su internet e quindi dare i codici a chi vuole prendere la mia automobile, che la poi a sua volta la sblocca con lo smartphone. Io do il permesso e quindi questa persona può, trovandola con lo smartphone in giro per una città, in giro anche per la provincia, prendere la macchina e riconsegnarmela quando io dico che ne ho bisogno. Questo potrebbe essere uno scenario. Enrico, abbiamo poco più di un minuto, quindi non possiamo certo aprire il capitolo della tecnologia a bordo delle auto con compiutezza, ma una cosa che ci vuoi segnalare? Beh, a proposito di tecnologia a bordo del veicolo, due cose ne segnalo. Allora, la prima è: quando comprate la prossima automobile, compratela con la radio digitale, la radio DAB. E questo anche Radio 24. Per forza. Per forza. Però l'altra tecnologia che secondo me oggi è ormai obbligatoria ed è disponibile, tra l'altro in alcuni casi anche di serie, su auto medio-piccole, il sistema di frenata d'emergenza. risolve un sacco di problemi, è veramente fantastico e in molti casi costa veramente poco. Parlo di alcune centinaia di euro, è un optional veramente economico. Beh, alcune centinaia di euro che appunto possono fare la differenza mi sembra indispensabile. E la radio digitale magari non è di vitale importanza, ma vi assicuro che Radio 24 si sente bene dappertutto e quindi secondo me è qualcosa, è un investimento che vale la pena fare perché vi renderà molto più piacevoli i vostri spostamenti in auto. A proposito di spostamenti piacevoli, si può anche scaricare il podcast, ma nel caso di Enrico Pagliarini si scarica il... Super podcast. Il podcast con tutte le interviste in versione integrale di 2024. Lo dico sempre perché è una delle cose che mi piacciono di più del Sabato del Villaggio, super il podcast. Super podcast di Enrico Pagliarini. Ciao Enrico, ci rivediamo in redazione a Milano. Io grazie, mi godo ancora un po' il salone dell'auto. Ciao Enrico. Buon divertimento a tutti, ciao. Un pochino di indicazioni sul traffico su strade e autostrade e poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta il Sabato del Villaggio. E rieccoci insieme perché abbiamo ancora uno spicchietto della prima ora di questo Sabato del Villaggio speciale dal Salone dell'Auto di Torino, qui dal Parco del Valentino. Ma vi vorrei anche lanciare un'iniziativa che partirà in realtà la prossima settimana, perché dalla prossima settimana ci sarà un'iniziativa congiunta tra Radio 24 e il Touring Club Italiano. Ogni sabato l'appuntamento sulla nostra emittente, proprio qui nel Sabato del Villaggio, per scoprire itinerari turistici poco conosciuti da valorizzare. E sul sito radio24.it ci sarà a disposizione ogni settimana la radioguida che in modo narrativo ci accompagna nei luoghi da scoprire. Tutto questo dalla prossima settimana, quindi è solo un piccolo aperitivo, un lancio di un'iniziativa che vi terrà compagnia dal prossimo sabato. Adesso è il momento di parlare di cinema. Ma lei ha idea di cosa ha scatenato? Ma che accidenti è? Non hai neanche un graffio su tutto il corpo. Lei è ancora vivo perché è stato scelto. Scelto? Da cosa? Dal male supremo. Ho paura! A volte ci vuole un mostro per combattere un mostro. E come sempre a quest'ora, anche qui dal Valentino di Torino, è il momento di parlare dei film in uscita in questo fine settimana al cinema. Parleremo tra un'oretta, meno di un'ora, del Museo Egizio appunto di Torino, ma siamo già in tema col Museo Egizio perché stiamo parlando di mummia. Lo chiediamo subito al nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori, attenta quando giri per le sale del Museo Egizio perché ti si potrebbe rivoltare contro una mummia di quelle belle potenti come accade nel film che è uscito questo giovedì, il, così come dicono quelli che se ne intendono, il reboot, cioè è una sorta di inizio da capo una storia che è appunto La Mummia, che ha il titolo celebre, che è stato il titolo di uno dei classici dell'orrore dell'epoca del muto, poi è stato il titolo di un film che ricorderete Brendan Fraser come protagonista all'inizio degli anni 2000, e poi arriva questo spettacolare film che punta tutto sull'effetto speciale, sulla profondità, su cosa vuol dire girare un film, un colossal nel secondo decennio del terzo millennio, e anche nel cast, perché abbiamo Tom Cruise nei panni di del protagonista, un archeologo e un militare, archeologi e militari sono i protagonisti, appunto Nick Morton e Tom Cruise profana una cripta inesplorata nelle profondità del deserto, risvegliando questa creatura millenaria che vi è sepolta, che tra l'altro è una principessa, è una mummia femmina, Sofia Boutella è la protagonista appunto. Tra le star tra l'altro anche Russell Crowe, che ci dà appunto anche l'idea di quanto la Universal ci abbia speso rispetto a questo a questo film, che poi devo dire, sentendo un po' i pareri fuori dalla sala, chiaramente sotto il profilo della credibilità è quello che è, ma sotto il profilo invece dell'impatto e anche un po' del divertimento, ha abbastanza convinto chi lo ha visto per primo. Per cui tutto sommato tu fai attenzione, ma gli spettatori, se vogliono passare un paio d'ore di thriller soft, diciamo così, possono andarci. E per gli appassionati di grandi attori, che cosa consigliamo questo fine settimana? Ma per gli appassionati dei grandi attori, dei grandi nomi, c'è un film, diciamo così, sentimental drammatico, che si intitola Quando un padre, che mette insieme nel cast direi tre nomi, soprattutto al maschile: Gerard Butler, protagonista assoluto, Willem Dafoe, che sta vivendo un bel periodo in termini di presenze nei film, e poi Alfred Molina. Cosa succede? Che il personaggio di Gerard Butler è un cacciatore di teste, Dane Jensen, che lavora praticamente H24, porta il telefono da colazione a pranzo, a cena, al parco coi bambini, a scuola, eccetera eccetera. Insomma, è un addicted del lavoro. Tutto sembra essere come dice lui, tutto sembra essere come vuole lui, una moglie non molto soddisfatta di questo andazzo, soprattutto perché i bambini sentono un po' la mancanza del padre, fino a quando non succede appunto che il figlio maggiore si ammala in maniera anche abbastanza seria, e da lì questo padre dovrà cambiare i rapporti di forza e le priorità della sua vita. Insomma, il canovaccio è quello del melò drammatico, diciamo così. E in effetti il film è abbastanza interessante, direi fino a tre quarti, salvo poi, come dire, andare un po' troppo sul, come dire, non dico sull'happy ending, però insomma cercare di essere molto consolatorio nella parte conclusiva. Prodotto medio, direi, complessivamente. Per chi ama gli attoroni ci sono. E poi, Franco, c'è un film che mi incuriosisce molto per la sua locandina. Io andrei a vedere questo, Un appuntamento per la sposa. Ma guarda, Marta, questo per me è davvero il consiglio della settimana, un'autentica scoperta. Non che servisse a scoprire Rama Burstein, la regista di questo film, che avevamo amato qualche anno fa con La sposa promessa. Evidentemente con le spose ha un conto aperto, e anche con il matrimonio forse, Rama Burstein. Dicevo, non tanto per scoprire lei, quanto per avere una conferma di una mano molto molto felice nel racconto, per questa regista israeliana, che questa volta racconta una storia tutta al femminile e tutta anche dentro quel mondo dell'ebraismo ortodosso, che è il milieu nel quale si svolge il film. È la storia di una ragazza che vuole trovare marito, sente bisogno di avere un compagno di fianco, di sentirsi amata, lo vuole fare all'interno dei canoni di questa religiosità molto, molto accesa, e lo fa nonostante il marito non ci sia. E questa è un po' la scommessa del film. La storia è veramente interessante per questo, perché questa ragazza ha una sala ricevimenti prenotata, ha un vestito già fatto, ha tutto quello che serve, ha addirittura una data, ma non ha un marito. Però è convinta che Dio le darà quel marito entro quella data, che pregando questo avverrà. È una storia, come dire, di antica modernità, potremmo dire, con una protagonista, Noah Kohler, davvero straordinaria, e con una regia che ti lascia attaccato a questa cosa che è sospesa fra il racconto, diciamo, di una società, di un taglio di una società assai particolare con le sue regole, e anche un po' dei toni di commedia in certi momenti. Quindi davvero un film dispari, cioè un film che non ti lascia quello che ti aspetti all'inizio e che per questo ti coinvolge molto. Grazie Franco. Dunque, l'appuntamento con te è dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Ciao, ci sentiamo dopo. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo. Garozzo eccelle, sì, stoccata, sì, la conferma, sì, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Dal 12 giugno il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Il sabato del villaggio. E siamo ancora con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, un appuntamento speciale questa settimana con Radio Tube insieme a Daniele Bellasio, come sempre, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Siamo sempre a Torino, al Valentino, meraviglioso, per il Salone dell'Auto. Ma di cosa parleremo nella seconda ora? Beh, parleremo di due simboli, uno di Torino e uno dell'auto. Per l'auto si festeggiano in queste settimane con grandissimi eventi i 70 anni di Ferrari. Per Torino abbiamo deciso di andare a scoprire cosa vedere in uno dei musei più belli d'Italia, il Museo Egizio. Poi ci collegheremo con Alessandra Tedesco per i libri del momento, ma ripartiamo proprio da qui, dal Salone dell'Auto. Queste erano le Cars di Gary Numan, ma che bel pezzo per parlare ovviamente di auto. È uno spettacolo questo Salone dell'Auto, che è proprio immerso al Parco del Valentino. Ma cosa succede? Soprattutto cosa succederà questa sera, cosa succederà domani? Perché in tanti vorranno ancora venire a vedere, venire a curiosare per sapere se c'è ancora qualcosa da vedere. Io vi assicuro, ancora tantissimo, lo chiediamo subito. E qui in postazione, alla postazione di Radio 24, con noi il presidente del Salone dell'Auto, Andrea Levi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, sono già passate le 4 del pomeriggio, ma siamo nel vivo e si va avanti ancora. Ci sono un sacco di auto e un sacco di persone. Sì, si va avanti ancora perché questa sera prevediamo di finire verso l'una. Gli stand sono anche visibili in notturna, le luci sono sempre accese, il tempo è meraviglioso e quindi quale migliore occasione per vedere nel Parco del Valentino ben 56 brand che presentano le loro novità. Abbiamo 26 anteprime nazionali, andiamo dalle city car alle sportive, ai SUV che vanno tanto di moda, quindi davvero per tutti i gusti, un salone che cresce, è cresciuto tantissimo nel numero di case, cresce nelle anteprime. Il posto è meraviglioso ed evoca quello che era l'antico Gran Premio del Valentino, perché in questi viali dove oggi vedi questi stand, Ascari, Nuvolari, Fangio, correvano appunto quello che era denominato il Gran Premio del Valentino, che dal 35 al 55 si svolgeva qua nel Parco Valentino. Oggi il parco è un parco per famiglie, per giovani, per passeggiate, e con questi layout tutti uguali, molto democratici. È vero, perché si va dalla macchina di lusso all'utilitaria, però democratico. È stato proprio il concept che è piaciuto alle case, dire qui non è una gara a chi fa l'allestimento più importante e anche costoso, aggiungiamo noi, ma è spazio alla passione, spazio alla semplicità anche di comunicazione, i cartelli segnaletici, brand tutti uguali, e poi parlano le auto, parlano la passione che ogni brand riesce a trasmettere, c'è un minimo di allestimento interno, ma tutto ovviamente molto pulito nel pieno rispetto della natura di questo parco meraviglioso, quindi è una nuova formula, c'è anche un massimo di vetture, perché ogni brand ha da regolamento massimo 4 vetture. Questo vuol dire che chiediamo alle case automobilistiche di portare le novità a Parco Valentino. Ormai la gamma completa la si può vedere nelle concessionarie, la si può configurare da internet, quindi con una bella passeggiata di circa, diciamo, un'oretta, 1,5 km, 2 km, si vedono, ecco, oltre 100 tra gli ultimissimi modelli, appunto, di cui 26 anteprima nazionali, quindi aspettiamo davvero tutti fino alla mezzanotte, ma vi garantisco che stasera anche chi passa un po' più tardi troverà ancora aperto e tutti pronti a presentarvi le macchine con tanto entusiasmo. Io vedo i torinesi sempre con gli occhi a cuore quando guardano le auto, gli italiani in genere, ma i torinesi in particolare. Anche domani si prosegue? Si prosegue anche domani, perché questa sera, ecco, abbiamo ancora il grande spettacolo del 90° anniversario di Volvo. Abbiamo già festeggiato Ferrari con una bellissima esposizione per il 70° fino a mezzanotte e, diciamo, qualcosina in più, nel cortile del Castello del Valentino. Si può accedere col biglietto elettronico gratuito che è scaricabile nel sito Parco Valentino. Si può vedere, ecco, quella che è una 50ina di macchine che raccontano la grande storia di Volvo. E poi domani, ecco, per chi viene domani, abbiamo il concorso d'eleganza dell'ASI, quindi spazio alle vetture classiche. Che meraviglia! E tra cui, tra l'altro, molte, in effetti, dicevi di Torino, della passione, molte disegnate da quelli che sono i grandi designer, diciamo, di Torino, quindi Pininfarina, Giugiaro, Bertone, quindi spazio proprio alle auto classiche. E poi, ecco, un focus molto importante, è il primo anno che lo facciamo in Piazza San Carlo, nella centralissima Piazza San Carlo, sulle vetture, diciamo, nuove tecnologie, focus auto elettriche, ibride plug-in e con i primi sistemi di guida assistita. Quindi molto interessante per coloro, ecco, che vogliono un po' scoprire, diciamo, le nuove tecnologie, perché abbiamo sia le case automobilistiche che presentano e sia, anche molto interessante, i primi proprietari di queste auto 100% elettriche, quindi una giornata per scoprirle. Così magari possiamo anche chiedere loro direttamente come si trovano. È un perché, buon consiglio, hai proprio ragione. Così noi lo chiediamo direttamente, ci dicono la verità e sappiamo scegliere meglio. Sì, ti dicono i dati reali, perché ad esempio l'autonomia è sicuramente uno dei punti dove tutte le case stanno cercando di aumentare un po' questa autonomia dei veicoli elettrici, però ecco, un momento anche qua, sempre ovviamente gratuito, per approfondire, ecco, questa tematica. E poi c'è Torino, che è bellissima, quindi vale sempre la pena venire a Torino, poi il tempo sta assistendo la manifestazione, e quindi davvero questa sera, fin dopo mezzanotte, domani ancora qui al Parco del Valentino, ma non solo, per questo salone che davvero vale la pena curiosare. Allora, io ringrazio tantissimo il presidente Andrea Levi, so che ha tantissimo lavoro, ma siamo contenti di averla rapita per qualche minuto al Sabato del Villaggio. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e vi aspettiamo ancora a Parco Valentino. Grazie, noi un pochino di traffico, appunto, e anche in topic in questo Sabato del Villaggio, e poi ci ritroviamo ancora. Il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio, sempre qui dal Valentino di Torino, in mezzo al Salone dell'Auto. Quante cose belle stiamo vedendo, stiamo per parlare di libri, perché dovrebbe esserci collegata con noi la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, ormai vai sempre in giro, io mi devo sempre collegare dal mio divano, non sì, va bene sì, questa sì, cosa? Sì, sì, sì, stiamo facendo un po' di tournée, Marta in tournée. Allora, la prossima volta vado io in tournée e tu rimani a Milano. Dai, facciamo il contrario, io dal divano, dal mio divano Brianzolo. Qual è il libro sulla bocca di tutti, qual è il libro che dobbiamo per forza leggere questa settimana? Andrea Camilleri, c'è cioè un nome e una garanzia, il libro. il libro di cui si sta parlando in assoluto di più in questo periodo, il libro che è ai vertici delle classifiche italiane e si intitola La rete di protezione, pubblicato come gli altri da Sellerio. È il famoso Montalbano, perché sai che Camilleri scrive sia in Montalbano che in non Montalbano, e ogni anno a maggio, per diciamo, gli appassionati di Montalbano, c'è questo appuntamento fisso con una nuova avventura del commissario. Allora, diciamo che questo libro, dicevamo, si intitola La rete di protezione e in questo romanzo sia Montalbano che quindi inevitabilmente anche il suo autore Camilleri hanno a che fare sia con il web ma soprattutto con i social. Tu hai presente Montalbano che si mette a vedere come funziona Twitter, Instagram, roba del genere? Ma lui era già imbranato col cellulare, non riusciva a mandare gli sms? Infatti continua a essere imbranato, però diciamo che è costretto dal caso sul quale sta indagando a familiarizzare con i social, perché diciamo che in questo romanzo si seguono due inchieste parallele, due indagini parallele. Da una parte quella appunto che coinvolge i ragazzini, che perché in una scuola media che è frequentata anche dal figlio di Mimì, degli uomini un giorno fanno irruzione ed esplodono alcuni colpi di pistola, così non si capisce per quale ragione, e quindi dovendo indagare sul mondo dei ragazzini delle scuole medie dovrà appunto darsi ai social network. In parallelo Montalbano segue un cosiddetto cold case, sai, i casi freddi, le indagini del passato, perché a Vigata si sta girando una fiction ambientata negli anni 50, allora per renderla più realistica la produzione chiede agli abitanti di cercare nei cassetti, negli armadi, sai, vecchie foto, filmini, e uno degli abitanti di Vigata, l'ingegnere Sabatello, trova alcuni appunto filmini che erano stati girati dal padre per circa 5 anni, fino dal 58 al 63, e riprendevano sempre la stessa cosa, un muro. Cioè lui fissava la cinepresa, così si chiamava, sul cavalletto e inquadrava questo muro ogni anno lo stesso giorno, il 27 marzo, dal 58 al 63. Però non posso spiegarvi. No, certo, a questo punto io sono molto curiosa e mi sta avvincendo anche il tuo racconto, ma a questo punto dobbiamo leggerlo nel romanzo. Necessariamente, perché se vi spiego perché è importante questo muro apparentemente insignificante, vi svelo tutto il segreto della rete di protezione, quindi insomma perdete il gusto della lettura. Non ti sto neanche a chiedere chi lo consigliamo, diciamo intanto a quelli che si sono fatti avvincere dal tuo racconto, ma poi gli appassionati di Camilleri sono tantissimi. Gli appassionati di Camilleri secondo me ne sanno più di noi, l'hanno già comprato, l'hanno già letto, l'hanno già digerito, aspetta. L'hanno già letto in più lingue. Però sicuramente a tutti gli appassionati Camilleri, a chi magari vuole, dice vabbè, voglio iniziare a conoscere Camilleri, non l'ho mai letto, vediamo se posso, se fa per me, La rete di protezione, ma come uno dei suoi tanti romanzi Montalbano, può andare bene. E tra l'altro, Marta, ti segnalo, così ci togliamo subito diciamo il sassolino, come si dice, tu mi chiedi sempre giustamente quando va in onda Il cacciatore di libri. Allora, visto che Il cacciatore di libri di questo fine settimana è dedicato appunto ad Andrea Camilleri, al suo ultimo Montalbano, ti dico che è andato in onda stamattina alle 6:30, ma c'è già il podcast disponibile su Radio 24. Perfetto. Allora, ancora consigli Alessandra. Guarda, adesso ti parlo di un noir, visto che parlavamo di Camilleri, noir, c'è questo autore pugliese che si chiama Omar di Monopoli. Mm-hmm. Il suo romanzo noir si intitola Nella perfida terra di Dio, pubblicato da Adelphi. Quando si parla di questo autore, di Omar di Monopoli, sono stati scomodati paragoni, come dire, molto importanti, per esempio nella letteratura Faulkner, oppure nel cinema Quentin Tarantino, perché ha uno stile molto cinematografico nella scrittura, ma anche un po' splatter, diciamo così. Accidenti. Tant'è vero che quando si parla di Omar di Monopoli, come genere letterario, alcuni usano il western pugliese. Ah, ok, beh, però ci sta, come ambientazione, secondo me ci sta la Puglia. Ci sta benissimo, e infatti questo romanzo della perfida terra di Dio, appunto, è un noir ambientato in Puglia, in una Puglia che lui si è immaginato, ci sono dei borghi, in realtà un borgo che non esiste nella realtà, E lui segue anche in questo caso due storie parallele, c'è un prima e un dopo. Nel cosiddetto prima, capitoli alternati appunto prima e dopo, si seguono le vicende di questo Mbanuzzo, che insomma un pescatore, uno che vive un po' dei spiedenti, che all'improvviso ha una specie di visione mistica e diventa un predicatore. Nei capitoli invece intitolati con la parola dopo si seguono invece le vicende di due ragazzi che sono nipoti nel senso di zio, di questo Mbanuzzo, e che hanno diciamo un padre che è boss della Sacra Corona Unita. Insomma, in tutto questo noir, poi non vi posso spiegare i dettagli, ne esce sicuramente l'immagine di una Puglia molto diversa di quella che ne esce dalle cartoline e dalle vacanze nel Salento. Diciamo che hai detto che ha dei toni un po' accesi, un po' forti, quindi non lo consigliamo a tutti. In alcuni casi sì, può essere un po' splatter, però è soprattutto, ecco, la caratteristica di questo romanzo e degli altri di Omar Di Monopoli, che usa una lingua secondo me bellissima, che è un mix fra l'italiano, il dialetto, comunque la costruzione grammaticale dialettale pugliese, e lo slang. E quindi è un romanzo da leggere in solitudine, vi mettete lì da soli, vi immergete, cioè proprio senza nessun disturbo, magari al mare sotto l'ombrellone. Ecco, magari chi va in vacanza in Puglia se lo porta, se lo prepara già da portare in valigia. Assolutamente. Ancora consigli, Alessandra? Allora, questa volta ho scelto, in questo caso non è un vero e proprio romanzo, ma si legge come un romanzo, come si dice sempre. Si intitola Scandalose, vite di donne libere, scritto da Cristina De Stefano, pubblicato da Rizzoli. Sono piccoli racconti di 3-4 pagine ciascuno, di donne realmente esistite e che hanno appunto la caratteristica di essere state scandalose, cioè di essere state delle donne veramente che hanno cambiato la storia. Si parla di scrittrici, poetesse, artiste, attrici. La cosa bella secondo me di questo libro è che ci fa scoprire dei personaggi che francamente io per esempio non conoscevo di questo libro, te ne cito alcuni, a parte Margherita Duras e Nina Simone, gli altri sinceramente non li conoscevo. Mina Loi, Lidia Cambrera, Claude Cahun, eccetera eccetera. La caratteristica di queste donne, come dicevo, soprattutto vissute fra i primi del Novecento e gli anni 60-70, è che erano tutte donne che facevano scandalo, sia per diciamo, le relazioni sessuali che avevano, spesso erano bisessuali, l'uso delle droghe, ma soprattutto per come dire, la voglia di affermare la propria indipendenza da donne. Mi piace moltissimo, lo prendo anche come un consiglio per me, perché diciamo che è bello sentire, farsi ispirare da grandi personaggi. Alessandra, hai ancora un consiglio per noi? Bambini. Bambini. Anche in questo caso faccio un pochino, prima parlavamo di donne degli anni 20, in questo caso faccio vi propongo un libro vintage, perché è la nuova edizione del piccolo libro Charlie Ciucciù, che è diciamo un facsimile della stampa originale del 1942, cioè questo libro è stato scritto nel 42 e adesso in Italia la Sperling & Kupfer lo ripropone, lo ristampa con i disegni diciamo anche un po' vintage dell'epoca. Una storia scritta da Barry Levans, e la cosa di cui si sta parlando molto è che già in copertina si riporta una frase di Stephen King, insomma il maestro dell'horror, che so che a te anche piace molto, perché ha detto: se mai dovessi scrivere un libro per bambini sarebbe proprio uguale a questo. Urca, ma non fa paura, secondo però te, non è uno... secondo te qual è il punto d'incontro? Non fa paura, no? Perché No, perché poi insomma Stephen King non è solo horror, diciamo che è un libro che è veramente pieno di fantasia e di cose inaspettate, ecco, mettiamola così, di cose inaspettate, però è un libro per bambini, Di diciamo, che età? A partire dai 5-6 anni in su, a 5 anni glielo leggono i genitori e poi invece a 6 anni lo può leggere da solo. Charlie Ciucciù. Alessandra, è un trenino, non ti ho detto che è un trenino, Ciucciù perché come vedo trenino. La copertina, certo, giustamente, certo. È un trenino. Abbiamo ancora un minuto abbondante, dai, un consiglio flash ce l'hai? Sì, guarda, consiglio flash, sai che spesso proponiamo libri di ricette, in questo caso non è un libro di ricette, ma è un libro proprio sul cibo, si intitola Bread, Wine, Chocolate, quindi pane, vino, cioccolata, la lenta scomparsa dei cibi che più amiamo, scritto dalla giornalista Simran Sethi, pubblicato in Italia da Slow Food Editore con un'introduzione di Carlo Petrini. Si racconta sostanzialmente la storia, l'origine di alcuni degli alimenti che normalmente consumiamo e che rischiano di estinguersi, diciamo, di scomparire per una serie di ragioni. Quindi non è un libro di ricette, ma è un libro di cultura del cibo e soprattutto di grande amore per il cibo. Che meraviglia! Grazie Alessandra, abbiamo già saputo del podcast del Cacciatore di Libri, che è già online con Camilleri, quindi meglio di così, insomma, direi che è proprio il massimo. Quindi Alessandra, ci sentiamo il prossimo sabato, al Sabato del Villaggio. Ti aspetto a Milano finalmente, Marta, torna. Torno. Ciao Alessandra! Baci! Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il sabato del villaggio. E siamo sempre in pieno Salone dell'Auto, nella meravigliosa Torino, oggi un sole, continua a dirlo, favoloso, caldissimo, il Valentino è splendido per il Salone dell'Auto, ma il Valentino è splendido sempre. Ma io sto anche cercando in questo Sabato del Villaggio di andare un po' a scoprire le bandiere, i simboli di Torino. Allora, c'è una gita che tutti i bambini italiani, almeno del centro-nord, hanno fatto durante gli anni della scuola. Ma il Museo Egizio è molto di più di una gita scolastica, è uno dei luoghi più belli non solo di Torino ma anche d'Italia. Allora torniamo a scoprire le magie del Museo Egizio e lo facciamo con il suo bravissimo e giovanissimo direttore Cristian Greco. Buongiorno Cristian. Buongiorno. Allora, io ci scherzo, però è vero, dai, siamo stati tutti deportati in gita al Museo Egizio e tutti a dire, cavoli, sì, il Museo Egizio l'ho visto da bambina, ma perché tornare? Ma no, perché il Museo Egizio è un posto bellissimo. Bene, beh, allora, innanzitutto sono contento che noi continuiamo ad essere nel Museo dei Bambini, abbiamo in alcuni periodi una scuola ogni 7 minuti e devo dire che mi riempie il cuore di gioia vedere, tra l'altro è un'espressione egiziana, perché in antico egiziano essere felice si dice awib, che significa la larghezza del cuore, e mi piace moltissimo vedere questi bambini che si emozionano, che corrono a vedere i reperti della cultura materiale. Però io sto molto lavorando per rendere il museo un'istituzione dinamica e viva. Molto spesso noi pensiamo che il museo sia la sommatoria della cultura materiale raccolta nelle vetrine, che quindi, visto una volta e conosciuta la sua cultura materiale, ebbene, non vale più la pena rivederlo. In realtà il museo è un centro di ricerca, è fatto di donne e di uomini che lavorano, mi piace molto paragonarlo all'università, all'accademia, che ogni giorno ci si interrogano sulle cronologie, sulle tipologie, cercano di contestualizzare i reperti e quindi ogni giorno scoprono qualcosa di nuovo. Il compito quindi del museo è poi queste ricerche, questi risultati delle ricerche, comunicarli in percorsi e narrazioni sempre diverse. E per questo il museo è un posto splendido in cui sempre tornare, in cui arricchirsi, in cui diventa un luogo di apprendimento, in cui veniamo messi a confronto con i nuovi risultati della ricerca. Diciamo che già il periodo del museo è un periodo che affascina sempre di più i ragazzi, anche perché ultimamente ci sono tanti film, tanti riferimenti culturali a quel mondo, e quindi secondo me anche da questo deriva lo stupore di vedere le cose per davvero. Certo, è fondamentale. Quello che cerco di fare io assieme ai miei collaboratori è anche far capire come visitare una cultura materiale di un paese lontano, di una cronologia lontana, in realtà sia poi studiare e conoscere noi stessi. Se lo vediamo in un'ottica evolutiva, la cultura materiale dell'Antico Egitto è un tassello della storia dell'uomo, e quindi visitare e conoscere questo museo ci permette di capire chi siamo noi. E quindi è un viaggio all'interno di noi stessi, un viaggio nella conoscenza dell'io, che ci permette di capire quale posto occupiamo e come siamo arrivati a questo sviluppo della società, partendo appunto da lì. Ma se ci fosse qualcuno che davvero non è mai stato al Museo Egizio, al di là appunto degli scherzi e della facezia del fatto che sia proprio una gita classica per i bambini, ma davvero c'è qualcuno che non c'è mai stato, che cosa si vede al Museo Egizio di Torino? Beh, innanzitutto in questo momento si vede una bellissima mostra che si chiama Missione Egitto, l'Egitto mai raccontato. In questo mai giochiamo un po' con l'acronimo Missione Archeologica Italiana in Egitto, è la missione che dal 1903 al 1920 va in Egitto e porta questi magnifici reperti, e quindi narriamo la storia delle grandi scoperte della tomba di Nefertari, della tomba di Khaemerit scoperta intatta, ed è l'unica tomba del nuovo regno che sia preservata intatta al di fuori dell'Egitto, e quindi solo questo vale una visita a Torino, e forse solo questo vale una visita in Italia, perché si trova un corredo completo di un grande architetto, il suo titolo era Imir Khaut-Nesut, responsabile delle opere del faraone, con tutti i suoi sarcofagi, i suoi, della moglie Merit, e tutti gli oggetti, le superlettili della vita quotidiana. Pensate che abbiamo addirittura una parrucca in capelli veri, che è la parrucca di Merit, che si è completamente preservata. E poi si passa da un tesoro all'altro, partiamo dalla mummia teodinastica, che data dal 3500 a.C., arrivando all'età bizantina. Abbiamo una bellissima galleria con i sarcofagi del terzo periodo intermedio, con il sarcofago di Bute Amon, che è l'ultimo scriba della necropoli, l'ultimo che ha servito ad Ermedina, questo villaggio degli artisti del faraone. E proprio il villaggio degli artisti del faraone fu ritrovato da Schiaparelli, e abbiamo moltissimi oggetti che provengono da questo villaggio. Pensate, coloro che costruirono e dipinsero le tombe della Valle dei Re, della Valle delle Regine, abbiamo i loro documenti, abbiamo gli ostraca dove loro registravano le loro transazioni finanziarie, e il giornale della necropoli in cui si diceva chi andava o chi non andava al lavoro, le loro lettere private. Quindi possiamo rientrare nella via di un villaggio del 1350 a.C. E poi passiamo attraverso la nostra collezione di tessuti, gli affreschi della tomba di Tieneferu, solo per citare alcuni dei corredi che abbiamo. Sono 10.000 metri quadri di museo, 4 piani, 2 km e mezzo di percorso, che ci portano per esempio ad entrare nel tempio di Ellesia, che è un tempio dell'epoca di Tutmosis III, che si trovava in Nubia e fu riportato dal professor Curto in Italia. C'è un intero tempietto all'interno del museo. La verità è che, oltre ad avere reperti, il segreto è saper raccontare che cosa significano e che mondo rappresentano. Credo che lei sia davvero bravissimo a saper raccontare. È la sfida del museo quella di fornire il racconto oltre che gli oggetti? Certo, e io ritorno su un concetto che esprimevo prima: la sfida del museo è porre la ricerca al centro. Se ci dimentichiamo questo, un museo non ha futuro. La ricerca è il centro. Abbiamo la fortuna di avere, di essere depositari di questa cultura materiale, la fortuna di avere questo tesoro che possiamo studiare. E se lo studiamo, io sono riuscito ad assumere 17 ricercatori grazie alla fiducia che ci dà il pubblico. Ci tengo a sottolineare una cosa: che il nostro museo non riceve finanziamenti statali, il nostro museo sopravvive grazie all'affetto che c'è dal pubblico, e il pubblico che viene a trovarci, e grazie ai biglietti noi riusciamo ad autosostenerci, e quindi a poter assumere dei ricercatori. Bene, se i ricercatori possono fare il loro lavoro e scoprire sempre nuovi contenuti, questi poi possono essere raccontati, e questa è una visione fondamentale. Poi c'è un altro concetto su cui insisto molto: il museo si deve radicare nel tessuto sociale in cui esso è inserito. Nessun museo può avere l'arroganza di pensare di esistere per diritto divino, e quindi ogni giorno pian piano noi dobbiamo conquistarci il nostro posto. Lo facciamo cercando di coinvolgere l'intera cittadinanza, facendo progetti di inclusione sociale, ma facendo progetti di apertura. Una cosa molto semplice, per esempio, che io faccio una volta al mese, è la passeggiata col direttore. Chiunque si può prenotare online e poi passeggiare con me un'ora e mezza a fine orario di apertura, quindi verso l'orario di chiusura, quindi si è da soli col direttore nelle sale e si possono visitare assieme i tesori del Museo Egizio. Che meraviglia! Ma poi quando i bambini arrivano ed escono con gli occhi sognanti e che vogliono fare gli archeologi? Questo è importantissimo e fondamentale. Ricordiamoci che l'Italia è depositaria di uno dei patrimoni archeologici più importanti al mondo, ed è fondamentale avvicinare i giovani all'archeologia, far capire loro che è un reperto, un documento storico inserito in un suo contesto archeologico che ci permette di capire, io dico sempre, il nostro futuro. Nel passato vi è l'eredità del futuro, solo se conosciamo il passato sappiamo chi siamo e possiamo progettare il nostro futuro. Quindi è fondamentale avvicinare le nuove generazioni, perché saranno anche coloro che poi dovranno decidere dei beni culturali nel futuro, saranno la classe di dirigenti del futuro. Ecco, loro si devono innamorare, ne devono capire l'importanza. Le faccio un paio di domande che sembrano prive di poesia, ma ogni tanto ho bisogno anche di informazioni pratiche. Da che età lei porterebbe i bambini al Museo Egizio? Guardi, da subito, non è mai troppo presto per innamorarsi dell'archeologia, della cultura materiale, quindi sicuramente a partire dalla scuola dell'infanzia, ma le posso dire che il bambino più piccolo che abbiamo avuto aveva appena 2 settimane e i genitori volevano molto fare una passeggiata con il direttore e quindi nel marsupio avevano questo bimbo che devo dire è stato silenziosissimo. Ho fatto questa visita di 2 ore e finché ho parlato lui è stato silenziosissimo, perché evidentemente dormiva. Appena ho smesso di parlare ha cominciato a piangere. E questo è un consiglio anche per i genitori che hanno i bimbi che non dormono: magari una passeggiatina al Museo Egizio tra il fresco e lo spirito del tempo, chissà, può aiutare. Quanto tempo ci vuole per girare per bene, cioè per organizzare una visita a Torino? Quanto tempo prendiamo per vedere il Museo Egizio? Ecco, allora un altro consiglio che do. Allora, come ho detto, il Museo Egizio sono 4 piani, 2,5 chilometri di percorso espositivo, e allora forse è anche bello visitarlo con calma, è anche bello anche concedersi il fatto di tornare, perché voler racchiudere 5.000 anni di storia in una volta sola, allora io posso dire si può fare una visita di 6 ore o di 8 ore, stare tutto il giorno al Museo Egizio, ma è anche bello invece dire vado al Museo Egizio, visito la sala di Deir el-Medina del Nuovo Regno, visito la tomba di Ka, che è uno dei tesori più importanti al mondo, che sarebbe un museo già in se stesso, perché trovare una tomba intatta con 550 reperti, oppure visito la Galleria dei Re con una delle collezioni di statue più belle al mondo, e magari torno un'altra volta a farci un'altra passeggiata e poi magari fra un anno ho ancora voglia di tornare. Sono d'accordo, anche perché poi anche Torino fa venire voglia di tornare. Io ci torno ogni tanto perché è sempre bello tornare a Torino, quindi una piccola tappa al Museo Egizio, anche perché così magari studiamo mano a mano, ci ricordiamo meglio le cose. Sono davvero contenta di aver parlato di questo museo, perché io l'ho rivisto dopo qualche annetto e davvero sono rimasta conquistata, perché non me lo ricordavo così bello, non solo perché gli anni erano passati e il museo è cambiato, ma perché non mi ricordavo che fascino potessero avere questi oggetti, e che fascino potesse avere questo racconto che porta il segno di una tradizione, di un tempo meraviglioso. Io sono anche molto contenta di aver avuto al Sabato del Villaggio il direttore Cristian Greco, perché come avete capito è un affabulatore che non solo fa rilassare, addormentare i bambini, ma che fa scoprire davvero la magia del Museo Egizio, che si sente, ama moltissimo. Grazie direttore per essere stato con noi. Grazie a voi e vi aspetto tutti al Museo Egizio. Verremo a trovarla prestissimo. Noi facciamo una brevissima pausa e poi saremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio, il traffico, poi avremo l'ultimo spicchietto del sabato per stare ancora insieme. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Il Sabato del Villaggio. I let you out at Central. I didn't care to state the plain. Kept my mouth closed, we're both so familiar. White Ferrari, stick by, close by me, you were fine, you were fine. As distance slow by, left when I forget to speak. So I text the speech, lesser speeds, Texas speed, yes. Basic takes its toll on me, eventually, yes. Eventually, yes. I care for you still, and I will forever. That was my part of the deal. Honest, we got so familiar. Spending each day of the year, white Ferrari. Good times. Beh, io sto per parlare di Ferrari e non posso alzarmi perché sono qui col microfono. Bisognerebbe sempre alzarsi in piedi quando si parla di uno dei simboli del nostro paese. Siamo al Salone dell'Auto di Torino, siamo al Parco del Valentino. Il Salone dell'Auto di Torino ha già festeggiato il compleanno della Ferrari, questi 70 anni meravigliosi. I festeggiamenti però durano per un sacco di settimane. Io ho guardato il calendario, c'è l'imbarazzo della scelta. Oggi a festeggiare la Ferrari è Monza e io, che sono di quelle parti, sono a Torino. Allora ci colleghiamo con Monza per sapere cosa sta succedendo, ma soprattutto cosa si farà in questo periodo per festeggiare i 70 anni magici della Ferrari. Davvero come se mi alzassi in piedi in questo momento in omaggio a questa parte del nostro cuore, di tutti noi italiani. Ci colleghiamo con Monza, con il responsabile commerciale Ferrari per Europa e Africa, Francesco Bianchi. Buongiorno. Buongiorno, buon sabato, è un piacere essere con voi. Che meraviglia. Allora, intanto è un anniversario importantissimo, che lo sapete voi di Ferrari, è qualcosa che tocca tutti gli italiani. Assolutamente, è un marchio che rappresenta l'eccellenza italiana ormai da 70 anni, quindi oggi... quest'anno festeggiamo appunto il 70° compleanno di Ferrari. Allora, bella, bella storia. Io ho visto che c'è proprio un sito per tutte le celebrazioni, 70.ferrari.com, il mito Ferrari 70 anni di eccellenza. Cosa avete organizzato e soprattutto dove? Perché si va in tutto il mondo per festeggiare la Ferrari. Ah sì, assolutamente. Le celebrazioni del 70° anniversario sono iniziate ufficialmente il 12 di marzo, che è un po' la data del compleanno di Ferrari, perché il 12 di marzo del 1947 usciva la prima vettura dalla fabbrica di Maranello, guidata dallo stesso Enzo Ferrari, la famosa 125S, e poi insomma da allora c'è stato 70 anni di storia, di eventi sportivi, di grandissime prestazioni, bellissimi modelli che hanno fatto la felicità di clienti e di appassionati dell'auto. Quindi da questa data abbiamo iniziato a fare tutta una serie di grandi eventi nel mondo per celebrare il marchio Ferrari e l'eccellenza italiana dappertutto. Adesso siamo a Monza e nella tappa italiana del Challenge, e qui stanno succedendo tante belle cose. Cosa succede ad esempio? Sono curiosa, vorrei un po' bilocarmi, vorrei sperimentare l'ubiquità in questo momento. Benissimo. Allora, qui oggi siamo appunto a Monza, all'autodromo. È la seconda tappa del Ferrari Challenge, che è uno dei campionati monomarca più popolari e più importanti al mondo. È un campionato che si articola su tre serie: Nord America, Asia, Pacific e anche chiaramente l'Europa. E questa è la seconda tappa. Siamo partiti da Valencia qualche settimana fa e quest'anno, in questo momento, siamo qua a Monza. Per giustamente avere anche il debutto della nuovissima vettura, la 488 Challenge, che qui a Monza appunto sta debuttando in Italia. Ci sono tante competizioni, due gare oggi, due gare anche domani, e tantissime cose interessanti da fare. Abbiamo un paddock molto ricco, tantissime Ferrari, quindi per chi ama le vetture sportive di alta prestazione, ama il marchio Ferrari, è un posto dove essere oggi e domani. Allora, per quanto riguarda invece il calendario, io ho guardato un po' sul sito, andrete dappertutto, cioè Asia, Australia, America. Intanto sono curiosa di capire come vi spostate, come si fanno a spostare le celebrazioni, perché non è che si può prendere una valigia. Ma noi abbiamo chiaramente organizzato con i nostri team in tutte le varie aree del mondo abbiamo organizzato questi vari eventi con il supporto anche della nostra rete di concessionari, e quindi in ognuna di queste posti a livello mondiale appunto realizziamo delle attività che si articolano chiaramente in maniera diversa dipendentemente da dove siamo. In generale ci sono in quasi dappertutto le parti del mondo le giornate sono delle giornate chiaramente di attività con le vetture, di attività in pista, di belle serate, parate. Ieri per esempio a Milano abbiamo fatto una bellissima parata che si è articolata per tutte le strade più importanti e iconiche di Milano e che poi è terminata al Castello Sforzesco, nella piazza del Castello, con più di 100 vetture Ferrari in esposizione. Una bellissima cosa sia per i clienti che chiaramente per chi ha avuto la fortuna di vederle passare. Allora, ma la domanda è: gli appassionati si emozionano di più di fronte alle auto che andranno in pista o alle auto che ognuno almeno una volta nella vita ha sognato e ahimè purtroppo probabilmente si limiterà a sognare di possedere? Guardi, guardando come reagiscono quando appunto facciamo delle parate oppure quando ci vengono a trovare nei saloni di esposizione come quello dove siete voi oggi, direi che in realtà vale sia in pista durante le competizioni che anche guardando appunto queste bellissime vetture stradali. La Ferrari non è chiaramente solamente la Formula 1, ma è soprattutto un brand di vetture bellissime, di opere d'arte che fanno la felicità non solo di chi le guida, ma anche di chi le guarda. Io devo ringraziarla tantissimo, ci ha fatto sognare moltissimo. Le chiedo solo, qual è secondo lei in questo momento la Ferrari più bella? Lo so che magari non lo può dire, ma quella che fa sognare anche lei qual è? Allora, in generale la Ferrari più bella è sempre la prossima, come diceva il nostro fondatore. In questo momento chiaramente il Pinnacle, l'elemento più alto, la più bella sicuramente è la Ferrari aperta, che è la vettura che rappresenta anche un po' il 70° anniversario, una vettura che abbiamo presentato l'anno scorso al Salone di Parigi e che sta accompagnando tutte le varie manifestazioni, quindi è anche qui in esposizione a Monza e quindi chi ci verrà a trovare domani avrà la possibilità anche di vederla. L'ho vista sul sito, confesso. Allora, favoloso, io ringrazio davvero Francesco Bianchi, responsabile commerciale Ferrari per Europa e Africa. C'è Filippo Aureggi in regia che ha fatto un cartello Forza Vettel, proprio un cartello enorme dalla regia. Grandi, siamo tutti con lui, benissimo. Grazie Francesco, buon lavoro e a tutti i ferraristi, buon compleanno si può dire, grazie, sì, a presto. Arrivederci. Io devo fare tutti i ringraziamenti perché si conclude qui questo fantastico appuntamento del Sabato del Villaggio. Appunto, ci siamo spostati un pochino anche a Monza, ma noi siamo qui al Salone dell'Auto a Torino. Ve lo abbiamo detto fino a questa sera e anche per tutta la giornata di domani per vedere un sacco di cose belle. Devo fare i ringraziamenti, devo ringraziare tantissimo Cristian Goldoni in redazione a Milano, Filippo Aureggi in regia qui a Torino. Qui a Torino hanno fatto funzionare tutto Alessio Petrucci e anche Elena Ligios. Tra poco un appuntamento speciale, specialissimo con RadioTube che abbiamo registrato a Milano insieme a Daniele Bellasio. Ora l'appuntamento è con il giornale radio.